5G. Ascolta e rispondi. Avete una mappa? No, non ce l'abbiamo. Avete una bicicletta? No, non ce l'abbiamo. Avete una terrazza? No, non ce l'abbiamo. Avete una piscina? No, non ce l'abbiamo.